la versione di Oscar. Di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, caro ascoltatore di Edo 24, in questo 31 di ottobre, perché per molti è di lavoro, malgrado altri facciano il ponte per i santi domani. E siccome domani ci sono i santi, appunto, per chi ci crede, e comunque insomma, solidamente parte del nostro calendario civile, oltre che liturgico, allora mi sono detto è il momento giusto per parlare di un libro che in realtà è l'occasione per parlare di un tema, perché è un libro dedicato a un tema. E il tema è quello che immagino dividerà molti tra voi, lo so già, cari ascoltatori, però qui non stiamo parlando in questo momento di un'offerta politica, stiamo parlando di un tema culturale. E il tema culturale è: ma i liberali e i liberisti, sì, lo sapete, faccio parte della parrocchia, perché in questo paese stentano così tanto? La colpa è loro? Oppure qui c'è un impianto complessivo, culturale, che continua una lunga egemonia, quella del secondo dopoguerra, che non è mai finito in Italia, con altre culture che hanno gestito con radicale impostazione un po' predatoria gli strumenti dell'egemonia culturale, cioè l'occupazione della scuola, dell'università, degli strumenti di comunicazione, cioè i pilastri attraverso cui si organizza il dibattito pubblico e da cui poi deriva la politica. Ecco, allora c'è un libro che affronta esattamente, non in maniera di un trattato filosofico o politico, ma con una scelta oculata di autori di cui si propone la lettura e di libri di cui si propone la lettura, rivisti in chiave dell'attualità italiana, per una specie di percorso culturale, di punti di riferimento per dimostrare che questa cultura, e io qui non faccio la parte terza, la nostra, quella di chi crede le cose in cui credo io, è A, solidissima, B, un riferimento mondiale, C, è vero, molto bistrattata, vi è più in questi anni di crisi, ma nel nostro paese prima della crisi, dopo la crisi, durante la crisi. Quindi resta la domanda che fare. Allora, questo libro che io vi consiglio molto di leggere, soprattutto per chi non si sente né liberale né mercatista né per la concorrenza eccetera, però almeno per avere un'idea degli autori più importanti a cui fare riferimento, di molti libri che non avrete sicuramente letto, per capire quali sono i fondamenti di questa cosa che molti di voi avversano e dichiarano che è tutta colpa del neoliberismo, anche secondo me, se non ne conoscete quasi nulla. Ecco, questo è il modo con cui è scritto questo libro. Il titolo di questo libro, volutamente provocatorio, è La disuguaglianza fa bene, manuale di sopravvivenza per un liberista. La nave di Teseo è l'editore, quindi un editore che nasce proprio nel mondo editoriale italiano per una interpretazione di come difendere la concorrenza contro le fusioni e gli accentramenti. C'è anche in questo uno spunto su cosa serve la concorrenza. La nave di Teseo nasce per questo recentemente, e l'autore è con noi, si chiama Nicola Porro, è giornalista per diversi anni, anche se giovanissimo, sulla carta stampata, negli ultimi anni anche un protagonista dei talk televisivi, quest'anno passato a un'azienda privata perché la RAI aveva deciso che gli ascolti che faceva sulla trasmissione che molti di voi ascoltavano, anch'io, Virus, di cui era conduttore, non andavano bene, col bel risultato che in RAI fanno molto peggio adesso, e quindi lo avrete capito, è Nicola Porro. Grazie di essere con noi, Nicola. Oscar, buongiorno, grazie a te e a tutti gli spettatori, gli ascoltatori. Lo so, tu oramai pensi solo alla televisione. No, posso farti una battuta? Certo. Quando tu parlavi dell'egemonia culturale, cosa che io condivido, ho scritto bene nel libro, la cosa incredibile è che un'azienda privata come la tua, il Sole 24 Ore in questo momento, ha il coraggio di invitare me, nel ha senso detto. Che ha il coraggio. Beh, io sono stato anche critico col Sole 24 Ore, come lo sono, e tu lo sai bene, perché però io quello che dico, anche il privato, come rappresenti tu e la radio del Sole 24 Ore, in realtà hanno un funzionare, ci possono essere dei problemi, ma garantiscono libertà di opinioni attraverso Giannino in questo caso, magari in altri, però garantiscono a noi una libertà di espressione che altri altre parrocchiette non garantiscono. Quindi io voglio dire, faccio veramente un plauso in questo caso al fatto che esiste in realtà uno spazio di grande libertà in questo paese, bisogna semplicemente conquistarselo. Tu lo fai tutti i giorni, Oscar, con la tua rubrica e che ti permette il Sole di mandare in onda, e ognuno di noi cerca di farlo, quindi un po' di colpa anche noi liberali ce l'abbiamo, perché la libertà bisogna conquistarsela, non è che stai lì fermo e ti arriva addosso come il sole, ecco. I programmi Rai, ne hai citati alcuni, adesso non voglio fare polemica, però a proposito del servizio pubblico, non sono altrettanto solleciti a parlare del tuo libro. nessuno di loro mi ha invitato. Questa è la prima volta che vado in una radio, è la prima volta che vado in una radio a parlare della disuguaglianza. Fa bene, ed è, non sono mai andato in nessuna radio Rai, non sono andato mai in nessuna radio pubblica, e non sono mai andato ovviamente neanche in programmi televisivi Rai, che mi hanno provato a invitare e poi dopo mi hanno ritirato l'invito. Sconvocato. Sì, però voglio dire, chi se ne frega, non sì. facciamo i martiri. No, fare una roba con te 100.000 volte sulla radio del Sole 24 Ore che fare una marchettina in Rai. Guarda, ma te lo dico senza... Tu lo sai quanto... vabbè, insomma, è inutile che continuiamo a fare... Ma infatti io ricordo a chi è in ascolto, appunto, che per esempio Nicola Porro ha fatto anche polemiche frontali e dirette col presidente di Confindustria Pro Tempore, con Emma Marcella e così via. Quindi, cari amici... questo e cosa tu vuol dire? Tu mi invitasti all'epoca proprio dopo tutto quel casino. Poi sono stato assolto, sono ben felice, ma tu mi invitasti in tempi non sospetti. Ci mancherebbe altro, ma io credo che si debba fare per questo, e lo stesso motivo per cui X volte sono già intervenuto e ribadisco anche oggi che, per quello che mi riguarda come giornalista esterno al gruppo, però vedere i conti del gruppo gravati da indagini di procure e dell'autorità di vigilanza del mercato con Senato di Bilancio, a me è per me è un ustione sulla pelle, cosa vuoi che ti dica? Però questo naturalmente, perché io credo che bisogna praticare in casa propria le stesse cose che poi si chiedono di praticare in pubblico. Però andiamo ad alcuni punti del libro. Posso dirti una cosa? Io parto da questa frase che ovviamente fa sobbalzare i miei ascoltatori, perché tu a un certo punto dici, fai una dichiarazione apolittica sul fatto che i liberali possono essere conservatori, possono essere di tipo diverso sui diritti civili, ma una cosa è sicura: chi è di sinistra non può essere liberale, perché per lui la collettività, lo Stato, eccetera, eccetera, vengono sempre prima dell'individuo. Lo sai che in questo paese detto così significa confinarsi nell'angolo? Ma lo dico apposta, perché bisogna avere il coraggio delle proprie idee. Noi ci siamo vergognati per tanto tempo, ma con buona ragione, di definirci di destra, perché la destra è stata raccontata in maniera grottesca dalla sinistra, cioè come autoritari, statalisti. Io dico nelle prime pagine del libro, io non c'entro nulla con la destra sociale, io c'entro con la destra austriaca, con la destra di Hayek, di Mises, di Popper, che viene utilizzato anche dalla sinistra, con la destra che secondo me è quella di Einaudi, con la destra risorgimentale, con la destra che insomma ha messo in pareggio il bilancio italiano, con la destra che si è inventato i più grandi scienziati delle finanze all'interno del 1900. Non bisogna avere di questa paura, di questa etichetta, tant'è che quelli di sinistra oggi dicono ma queste sono vecchie etichette dell'Ottocento. Io penso e rivendico che un uomo liberale, di destra se si preferisce, soltanto per distinguersi, per differenza dagli altri, è un uomo che pensa che prima di tutto venga l'individuo e la sua libertà dalle prevaricazioni dello Stato con la magistratura, la libertà rispetto alle prevaricazioni dello Stato con le tasse, la libertà rispetto anche all'utilizzo della propria vita nel modo migliore che si può. Per esempio, io sono un antiproibizionista, vaglielo a spiegare a quelli di destra sociale cosa vuol dire essere antiproibizionista, quelli mi ammazza, sto scherzando ovviamente. Perciò io rivendico fortemente il fatto che noi ci siamo dimenticati da un po' di anni che lo Stato, la società, i sindacati, i partiti nascono solo per rendere migliore la vita degli individui e stanno diventando delle specie di entità a sé stanti che governano la nostra vita. Non esiste lo Stato, non esiste la società, diceva la Thatcher, esistono gli individui, e quindi questa è la vera differenza. Un uomo liberale di destra parte dal presupposto che gli individui debbono avere garantite il maggior numero di libertà possibili. Perché sono partito di qua, che è la frase finale di un capitolo che a me ha fatto piegare in due le risate, perché lo condivido, io a Capalbio non ci vado, è il titolo del capitoletto di cui questa è l'ultima frase, perché questo tema riporta al tema che tu hai scelto per dare il titolo al libro. Perché dire noi poniamo al centro l'individuo, non c'è nessun programmatore pubblico, dirigista, capo delle ferrovie, presidente del consiglio che possa sapere meglio di ciascun individuo diversamente cosa fare dei suoi risparmi, come impiegare il suo tempo rispetto al lavoro, rispetto al resto, eccetera, eccetera. Quindi la libertà degli individui è un bene incalcolabilmente superiore a ogni organizzazione dal centro, però questa, l'obiezione che viene dalla sinistra a questa impostazione è: allora voi volete la diseguaglianza, la fine del ceto medio, siete contro la distribuzione, per questo non fate altro che parlare di basse tasse. E tu hai scelto il titolo, la diseguaglianza fa bene. Come li convinci, i miei ascoltatori? Li convinco con quello che diceva Hayek, che lo diceva in un periodo in cui i socialisti erano forti, non come oggi che si mascherano da liberali. Diceva: il problema non è attribuire a tutti gli individui gli medesimi diritti e le stesse opportunità, questo tutti i liberali lo condividono, il problema è pensare che tutti gli stessi individui che abbiamo garantito garantito le medesime libertà, i medesimi diritti e medesime diciamo, punti di partenza debbano avere risultati uguali. Questo è insopportabile per un liberale. Quando un liberale dice la scuola è importante, lo dice, lo scrive nel libro mille volte, perché quello è un tema di opportunità, ma la redistribuzione del reddito, cioè prendere i soldi dai ricchi perché si considera che quei soldi non sono meritati e redistribuirli per redistribuirli, non per fornire dei servizi, beh, quella è un'impostazione ideologica inaccettabile. Se uno è ricco, io sono felice che ci siano più persone in Italia con Ferrari e Porsche, se meritate, perché non sono quelle che rendono il paese più povero. Il paese è reso più povero dalla redistribuzione assurda della ricchezza, perché disincentiva a fare meglio. Ti faccio un esempio molto, molto banale, lo metto nel libro in maniera molto semplice, ma scusatemi, la società più uguale di tutti è quella in cui tutti quanti non hanno nulla, non in cui tutti quanti ci hanno molto, no? E noi vogliamo tendere a quella società, noi vogliamo semplicemente una società in cui le tasse esistono, non sono belle, perché io penso che non siano belle, ma servono esattamente per dare uguali opportunità a tutti gli altri. Nessuno vuole che le persone rimangano indietro per censo, anzi, questa è la società in cui non esiste mobilità sociale, proprio perché con questa follia della redistribuzione noi rendiamo e manteniamo sempre più poveri i poveri e manterremo le classi sociali più agiate oggi sempre più agiate. Questo è l'assurdità di un sistema non liberale, no? Che fingono di volere l'uguaglianza ma perpetrano la disuguaglianza. Riflettete, cari ascoltatori, sul fatto che noi abbiamo una percentuale della spesa di spesa sociale che è assolutamente in linea con paesi che hanno, però il problema è che noi la concentriamo sugli anziani, non ai giovani, zero per la povertà assoluta anche con questo governo di sinistra. E allora ti chiedo, in un capitolo tu affronti la questione del sostegno fiscale a chi ha bassissimo reddito e rilanci un tema di cui noi da sempre siamo convinti, cioè l'imposta negativa, Milton Friedman, che fa parte dei padri di chi la pensa come noi. Spieghi perché ai nostri ascoltatori è diversa l'idea di imposta negativa liberale per sostenere chi ha meno reddito rispetto al reddito di cittadinanza dei 5 Stelle. C'è una differenza sostanziale, anche se posso dirti la verità, il principio per cui le persone più deboli debbono essere aiutate è il medesimo, ma il meccanismo che pensano, no, che il liberale o il liberista voglia che le persone muoiano di fame per strada, non è così. L'imposta negativa sul reddito inventata da Milton Friedman non è il reddito di cittadinanza, che vuol dire io sto fermo, non faccio nulla e quindi mi prendo un reddito, è esattamente il contrario, è il complemento rispetto a quello che uno poco o molto riesce a guadagnare per arrivare alla sopravvivenza. Quindi sostanzialmente si dice, se tu guadagni 100.000 euro ti metto un'imposta che serve per pagare i servizi, non tanto per ridistribuire, dice Friedman. Se tu invece di 100.000 euro guadagni, che so, 10.000, che è il reddito che viene considerato minimo di povertà, la soglia di povertà 8.000, 6.000, bisogna stabilire, lì c'è una scelta politica, io ti integro, ti do un'imposta negativa, cioè ti do un sussidio, ma questo sussidio cala al tuo aumentare del reddito e soprattutto questo sussidio te lo do se tu mi dimostri che stai cercando di trovare un lavoro e non lo trovi, o che stai cercando di darti da fare. Quindi è una proposta intellettualmente molto affascinante, e cioè che dice che le imposte sono positive per chi guadagna e negative per chi ha un reddito basso, anche se, e lo scrivo nel libro, è uno di quei meccanismi la cui applicazione è molto complicata, perché se c'è una cosa che i liberali sono fissati è che sono pragmatici, quindi bisogna stare attenti, perché è un'imposta intellettualmente molto intelligente, fatta negli anni 70 da Milton Friedman, che viene considerato la destra più becera del mondo, che invece dice che bisogna aiutare i più deboli. Detto questo, l'applicazione di questa norma rischia di essere soggetta a molti abusi, perché, cosa che scrive Martino nel libro. Esatto, perché detta in soldoni, cari ascoltatori, noi che vogliamo questa cosa, in cambio vi diremmo tutti i diversi sussidi e programmi di sostegno al reddito, quelli centrali, che sono molte decine, e la somma di quelli comunali, provinciali e regionali, che sommati sono molte centinaia in Italia, tutti dovrebbero sparire, tutti, perché è proprio la concomitanza di questi sistemi non mirati in maniera analoga che porta al paradosso che ricordava prima Nicola Porro, cioè un'elevata spesa sociale i cui effetti sull'ascensore sociale, sulla concentrazione degli effetti per dare uguaglianza e opportunità a chi ha meno reddito in Italia è la più bassa tra tutti i paesi avanzati, tranne la Grecia, ecco. Perciò il Portogallo ci supera come qualità dell'efficienza degli effetti a fronte di un ammontare elevato di spesa sociale. Quindi bisognerebbe levare tutto il resto e fare questa scelta radicale. Siccome levare tutto il resto nel nostro paese è un'impresa improba, ciò non toglie che chi la pensa come noi ha una risposta alla questione del sostegno ai redditi dei più deboli, capite? Chi vi racconta che siamo indifferenti e che vogliamo il darwinismo sociale mente o per ignoranza oppure perché sa di mentire. Torniamo tra un minuto. Strade Radio 24 verso la Casa Bianca. Chi sarà il 45esimo presidente degli Stati Uniti? La sfida tra Hillary Clinton e Donald Trump al giudizio del voto. Radio 24 ti racconta l'America che verrà attraverso un lungo viaggio di avvicinamento in onda dal 1 novembre. Ascolta gli approfondimenti nei programmi, i servizi e gli speciali verso la diretta non-stop che ci porterà alla proclamazione del vincitore. Verso la Casa Bianca. Da ascoltare e da leggere su Radio 24 e radio24.it. Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta la versione di Oscar. Eccoci qui, tornati questo 31 ottobre a parlare con la scusa di un libro, un bel libro che vi consiglio di leggere, il titolo La diseguaglianza fa bene, manuale di sopravvivenza per un liberista, è un libro che in realtà non è una tesi personale, vi propone un percorso di lettura di grandi libri, grandi autori nella storia dell'economia per far capire che chi vi descrive, chi tifa per il mercato, la concorrenza come un darwinista sociale ha in realtà dietro un bel bagaglione di critica sociale ed economica a quello che è avvenuto negli ultimi due secoli, dalla fine del Settecento, a idee solide, persone intellettualmente molto spesse, e non è quella caricatura dell'indifferenza sociale che vi viene descritta. L'autore Nicola Porro è con noi e io lo sapevo che però gli ascoltatori arrivavano all'attacco dicendo caro Porro e caro Giannino, ma che dite, vi dimenticate il ventennio di Berlusconi, è per questo che i liberali in Italia fanno ridere. Che si risponde, Nicola? C'è un elemento di verità, questo, anche se io critico le interpretazioni, diciamo, alla Galli della Loggia sul ventennio berlusconiano, perché bisogna sempre pensare, come i liberali fanno, che non c'è mai the best, c'è anche il second best. Che cosa sarebbe successo se non ci fosse stato Berlusconi? No, il problema è che Berlusconi non è né first best né second best, è the beast, nel secondo chilo critica, cioè la grande bestia dell'apocalisse. Sì, ma difatti io non voglio entrare su questo merito, però una cosa mi dà, uno spunto me lo dà il tuo ascoltatore, che secondo me è molto interessante. Questo forse ci trova a me e a te su due punti di vista diversi. Io non penso che sia necessaria in Italia una rivoluzione liberale, perché io non amo le rivoluzioni. Le rivoluzioni sono sangue, sono movimenti, casini, cambi repentini di classe dirigente, il che alcuni se lo augurano, io forse me lo auguro pure, però non si sa mai che cosa porta una rivoluzione. Io quello che auspico è una cosa diversa rispetto a quella che ci ha venduto Berlusconi o che ci hanno venduto tutti quelli che vogliono una rivoluzione liberale, dicendo che Berlusconi non l'ha fatta. Io vorrei un contagio liberale, cioè io sono più appassionato del fatto, caro Oscar, che le cose che io e te diciamo e che tu in radio, io in televisione, sui giornali diciamo, diventassero patrimonio, diciamo, un po' genetico delle classi politiche, cioè l'idea che quello che conta è l'individuo, che le tasse fanno male, che la burocrazia è una stronzata, che la corruzione non si elimina attraverso un organismo in più ma attraverso una semplificazione, queste robe qui, che diventassero patrimonio comune di una classe politica. Quindi quello che serve, e per quello ho fatto La disuguaglianza fa bene, che secondo me è rivolta ai ragazzi più giovani, è: ragazzi, attenzione, perché c'è una sinistra gramsciana che mi ha detto c'è un problema, faccio una norma, e c'è invece una destra liberale che vi ha detto cioè abbiamo un problema, lasciamo agli individui risolverlo, perché i fallimenti del mercato sono sempre meno disastrosi dei fallimenti dello Stato. Quindi non voglio una rivoluzione liberale, io voglio un contagio liberale. Io sogno un Presidente del Consiglio di sinistra che comunque parta da una piattaforma liberale, nel senso che non so come dire, innesti il suo lavoro in un terreno fertile. Capisci cosa voglio dire? No, quindi, lo capisco, ma sono molto d'accordo con te. Non so se siamo che nel tempo, io sono più vecchio di te, stavo 20 anni con Spadolini a Palazzo Chigi, Cioè, ho perso un po' di realistica convinzione che si possa fare con la gradualità. Io vedo che nella gradualità quello che vince è la trasversalità. Le leggi le scrivono, siano, io ho visto governi di destra, prima Repubblica, seconda Repubblica, destra, sinistra, tecnici, le scrivono i dirigenti generali della pubblica amministrazione. La politica fiscale ha un continuum da questo punto di vista, perché è l'apparato dello Stato autonomo oramai, che è diventato il vero depositario del potere legislativo, di quello esecutivo, dell'interpretazione delle leggi, poi con la magistratura lasciamo perdere. Allora, io un po' la vedo così, quindi dico, quella è dura, gradualmente, è dura, è molto dura, però, cari ascoltatori, no, è inutile. Nel libro di Nicola Porr non trovate il capitolo su Renzi, quello su Berlusconi, quello sul referendum, è una questione di ordine più generale sulla società italiana, perché molti dicono, però voi state rifuggendo da un giudizio, ma non è meglio Renzi più liberale piuttosto che la sua opposizione del PD che sono meno liberali? Non so, io te lo chiedo. Sì, ma chi se ne frega, hai ragione tu, nel libro, cioè io il libro è dedicato a un'altra cosa, è una cosa molto più importante. Guardate che negli ultimi 50 anni, mentre noi pensavamo a De Gasperi, alla Pira, a Zanone, si stavano occupando gli spazi culturali, ma perché questi se ne dimenticavano, i liberali, si occupavano gli spazi culturali, quindi adesso sì, possiamo anche parlare del referendum, di Renzi, ma la vera scommessa per un liberale è cercare di riappropriarsi di un pensiero dello Stato che non sia basato sullo Stato ma sull'individuo, cioè questa è la scommessa per la quale faccio la disuguaglianza, va bene, chi se ne frega. Poi certo, tatticamente ci sono delle cose che Renzi fa che hanno un sapore vagamente liberale, come tatticamente alcune cose fatte da Berlusconi hanno un sapore vagamente liberale, ma probabilmente anche il professor Monti o Letta, che sono due governi che certamente non trovano in me un grande supporter, hanno fatto. Ma il punto è un altro, un punto è: cerchiamo di capire cosa è mancato in Italia. In Italia non è mancata una rivoluzione liberale, è mancata una cultura liberale negli ultimi anni, e noi eravamo i padri della cultura liberale, esatto. Oscar. Figurati, Buchanan, il padre di Public Choice, bravo, venne negli anni 50 in Italia, bravo, a studiare. Bravo, grande. Bravo, però nelle università, bravo, italiane non li studia più nessuno perché sono banditi. Io però, l'ultima riflessione che ti chiedo è, io una cosa nella vita che mi è piaciuta tantissimo è vedere un socialista di livello, perché sta nella cattedra di Einaudi, come Francesco Forte, scrivere uno che è liberale come impostazione, però socialista, craxiano, sì, noi ci siamo divisi nella Prima Repubblica come pazzi e scemi, dandoci addosso e così via. Invece ha scritto uno dei libri più formidabile, Einaudi versus Keynes, edito dal Bruno Leoni, che tu ricordi, io ti ringrazio, nel libro, e l'ha scritto un socialista, sia pure liberale. Questo significa che forse uniti, invece che dividendoci, perché siamo anche tanti galletti che si beccano, ecco, questa è la grande lezione per me del tuo libro. Magari sbaglio, dimmi tu. No, no, è sacrosanto. Ho citato il libro di Forte, come ho citato altri libri che uno non considererebbe, Michele Brambilla, L'Eskimo in redazione. Ho citato Gibson, che fa Il neuroamante, che è un libro sul cyberpunk. Ho citato ovviamente Manzoni, ma tu lo sai benissimo, nelle sue pagine liberali. Noi dobbiamo cercare di essere, cioè, siamo sempre stati divisi. Loro ci hanno avuto il centralismo democratico, capito, esatto, che l'ha tenuti un po' insieme. Esatto. E noi invece stiamo, Oscar è un pochino di qua. Ma dai, chi se ne capito? Ma chi se ne frega? Allora, ma io posso dirti, l'augurio che io faccio alla tua generazione è di non commettere, io rispetto tutti, però l'errore per esempio di Vittorio e di Belpietro, che passano la vita a beccarsi. Più ci becchiamo e più ci dividiamo, più è facile che abbiano ragione gli altri. Ma non perché facciamo un partito, per le idee. Leggete La disuguaglianza fa bene di Nicola Porro per capire che sono idee, non è l'articolazione quotidiana dell'offerta politica. Chi se ne frega di questo? Grazie a Nicola Porro, un abbraccio a lui. I santi domani per noi sono i santi liberali. Sì, lo so, siamo in minoranza. Continuate su Radio 24, grazie a Porro.